quite a number of questions have been submitted, and well, actually, it's not too bad. And so I will try to answer those questions as soon as possible. Mi sono state fatte tantissime domande, quindi cercherò di rispondere a quanto mi è possibile. And the practice related questions first, and then at the end there will be some questions of a general nature. Prima facciamo le domande più pratiche e poi quelle di conoscenza più generale. So the first one in Italian is come si può aumentare l'energia quando è poca. Okay, do you understand? And so the English translation would be how to increase the energy when it's rather weak. Now, the answer to this is as follows. Among the four supreme efforts, we have the fourth one, and that says, herein a disciple rouses his or her will to arouse wholesome states that have not yet arisen. Allora, la risposta è questa. Il primo dei quattro nobili sforzi, riguardo al primo dei quattro nobili sforzi, si dice un meditante mette la volontà di fare sorgere gli stati benefici che non sono ancora sorti. And one makes effort, stirs up one's energy, exerts one's mind and strives. E quindi fa proprio sorgere la sua energia, mette dell'impegno, dello sforzo e si impegna for the mind. Stirs up his energy, exerts one's mind and strives. Ah, ok, si impegna la sua mente e si sforza. Now, then we have the Chanki Sutta, and it gives a whole sequence of certain factors that eventually lead up to this striving. E in un sutta si trovano tutta una sequenza di fattori che portano a questo impegno. And so if one has found a teacher, then one places faith in the person and visits the person and pays respect. Allora, trovare un insegnante, trovare un insegnante, avere fiducia in quell'insegnante, visitare l'insegnante e portargli rispetto. Then one hears the Dhamma, poi si ascolta il Dhamma. One memorizes it, one examines the meaning of the teachings one has memorized. Si memorizza e poi si esamina gli insegnamenti che sono stati così memorizzati. And with that one gains a reflective acceptance of those teachings. In questo modo si riesce ad accettare, almeno in modalità riflessiva, intellettuale, questi insegnamenti. And out of that springs zeal. Da questo viene un certo zelo. And also, what then follows is one applies one's will. E quello che segue è che appunto si applica la propria volontà. One scrutinizes, so one investigates. Quindi investigando, poi indagando. And then one strives, paddahati in Pali. E poi ci si impegna in Pali, paddahati. So resolutely striving, one realizes with the body the supreme truth and sees it by penetrating it with wisdom. E quindi grazie a questo impegno davvero consistente, alla fine si riesce a realizzare tramite il corpo, with the body, with the body, yeah. si riesce a realizzare tramite il corpo questa suprema conoscenza. And when you look at the Dhamma Sanghani, it certainly contains all sorts of synonyms for effort, and some of those are exerting harder and harder. Quindi nel Dhamma Sanghani si trovano dei sinonimi per lo sforzo, e uno di questi è quello di impegnarsi sempre più duramente, duramente, sempre più duramente. And endeavoring higher and higher. Endeavoring, sì, impegnarsi in modo sempre più elevato. And suddenly then applying utmost exertion. Applicare questo sforzo pieno. And still other expressions are there. Effort is also said to be of three grades, the first one being in the initial effort, then the stepped up effort, and the culminating effort. E lo sforzo viene suddiviso in tre gradi, cioè lo sforzo iniziale, uno sforzo che continua, continuativo. No, stepped up, boosted effort. Energizzante. Uh-huh. And then the culminating effort. Poi uno sforzo che raggiunge il culmine. So the initial effort is to make arrangements to come on a retreat, then traveling to the retreat center, listening or reading the meditation instructions, getting started in the practice, and certainly the stepped up effort is when the hindrances arise, one steps up, one boosts one's effort in order to overcome them. Allora, lo sforzo iniziale consiste in tutte le preparazioni che facciamo per venire al ritiro, poi impariamo, ascoltiamo, leggiamo le istruzioni, le mettiamo in pratica, mentre questo sforzo energico consiste in quando incontriamo gli inquinanti e allora dobbiamo far sorgere l'energia necessaria per superarli. And then in the end we have the culminating effort, which is an ever increasing effort that ultimately leads to the realization of the goal. E poi lo sforzo che arriva al suo culmine, apice, consiste in tutti i vari gradi di impegno e di sforzo che si applicano fino al raggiungimento poi della meta. Now, the next question, in German, I'll read it on. Gibt es bereits in den Sutren Hinweise auf die Praxis der Gehmeditation bzw. Metta-Übung? So in English that would be... in the suttas, are there indications or references in the suttas in terms of the practice of walking meditation and metta practice? Allora, nei sutta ci sono dei riferimenti o delle indicazioni che riguardano la pratica della meditazione camminata e la pratica di metta? And so the answer is clearly a yes. La risposta è sì, sicuramente. In the text there are plenty of discourses given by the Buddha, such as the Chankamana Sutta, the discourse on walking meditation, that refer to the walking meditation. Nei sutta ci sono molti riferimenti del Buddha, per esempio c'è proprio il Chankamana Sutta, che è proprio un sutta sulla meditazione camminata. And the Buddha has been reported practicing walking meditation in various texts, Digha Nikaya, Samyutta Nikaya, Theragata, etc. E ci sono menzionati molti momenti in cui il Buddha faceva proprio la meditazione camminata, sia nel Samyutta Nikaya che nel Digha Nikaya che nel Theragata. And certainly there are also passages describing the senior disciples of the Buddha engaged in walking meditation with their disciples. E poi ci sono anche dei passaggi che riguardano i discepoli principali del Buddha che facevano una meditazione camminata con i loro stessi discepoli. So one example of walking in meditation is certainly that of King Pasenadi trying to approaching to pay respect to the Buddha, and he inquires where the Buddha is, and at that, and then it says in the suttas, now at that time a number of monks were walking up and down in the open air. Quindi un esempio, per esempio, quando il re Pasenadi voleva andare a incontrare il Buddha e quando è arrivato nel luogo dove risiedeva, descrive che c'erano in quel momento della giornata moltissimi monaci all'aperto che camminavano avanti e indietro meditando. The venerable Bhikkhu Analayo in his book Satipatthana has plenty of reference, or has all the references to the walking meditation. Bhikkhu Analayo nel suo libro sul Satipatthana ci dà tantissimi riferimenti bibliografici su questo. Now, and in terms of the metta practice, for this too, there are references to it in the Digha Nikaya, in the Visuddhimagga, and certainly the Patthisambhidha Magga, path of purification and path of discrimination. Riguardo alla metta, pratica di metta, ci sono riferimenti nel Visuddhimagga, nel Patthisambhidha Magga, cioè nel sentiero della purificazione, della discriminazione, e nel Digha Nikaya. Yeah, and for the type of metta meditation that we're reciting every night here, that is actually from the Patthisambhidha Magga. Il sutta che recitiamo tutte le sere qui viene dal Patthisambhidha Magga. And the Buddha has spoken or mentioned metta in the context of the Brahma Viharas in various places. E poi ancora in veramente moltissimi punti dei testi il Buddha cita la metta quando parla dei quattro Brahma Vihara, le quattro dimore divine. Now, the next point here, with regard to the Palasa Jataka. So the Jataka that was mentioned at the very first talk, during the opening talk, you might remember. Questo è il prossimo punto. Qui si riferisce al Palasa Jataka, il sutta che abbiamo menzionato proprio nel primo discorso. And so here the questioner is writing, on the first evening you told us the Palasa Jataka and certainly where the Bodhisattva advises the Judas tree deity to get rid of the banyan seedling that had started growing in it and certainly would even finally kill it. E quindi la prima sera tu hai parlato del Palasa Jataka, dove appunto il Bodhisattva stava avvertendo le divinità dell'albero di Giuda che se lasciavano crescere il bagnano sull'albero, poi questo sarebbe morto. Now the question. In a cut and dry scenario of kill or be killed, does this story tell us that our responsibility of non-killing of ourselves is to be regarded higher? Quindi, nello scenario, un brutto scenario in cui dobbiamo scegliere tra uccidere o essere uccisi, questa storia non ci sta forse insegnando che dobbiamo preferire il fatto di non essere uccisi noi? What was it here? Kill? F- for you, this last sentence I can't read anymore. The very last sentence at the bottom. In short, save your life even if it means taking another life. And so this goes a bit, the question goes a bit too far. La domanda va si spinge un po' troppo lontana. At first I thought, oh my goodness, this is going to be a headache. but then, when thinking of Fatna Lumbini and the banyan tree, the banyan trees there, and the banyan seedlings there, to inform you, they are pretty sturdy plants. Però dato che in Lumbini noi abbiamo queste problematiche con gli alberi di bagnano, vi posso dire che sono veramente delle piante un po' toste, testarde. And so it says in the Balasajataka, the summary of it, when the Bodhisattva had, the Bodhisattva noticed the seedling and told the tree deity that bunions kill every tree they grow on. Allora, in questo Jataka story viene detto che il Bodhisattva vede questo germoglio dell'albero di bagnano e informa la divinità dell'albero che l'albero di bagnano uccide tutti gli alberi sui quali cresce. And then it says here, so he should pick it off. The tree, Judas tree deity, is encouraged by the Bodhisattva to pick it off. It doesn't mean to kill it. E quindi dice alla divinità del bagnano di toglierlo da lì, in realtà non gli dice propriamente di ammazzarlo. So the issue here with saving one's own life or killing someone else, it's not really included. Quindi comunque la faccenda di salvare la propria vita uccidendo, togliendo la vita a un altro, non è una faccenda veramente inclusa in questo sutta. At the meditation center in Lumbini, and in Lumbini there are plenty of banyan trees around, and there are plenty of birds that pick the seeds of the banyan trees, and then defecate it here and there, and all of a sudden the banyan sapling starts growing next to the wall of a big building and so on. In Lumbini questa cosa succede, ci sono un sacco di alberi di bagnano, gli uccelli vanno a mangiare i semi, poi defecano in giro, alcune volte ci sono questi germogli di bagnano che crescono magari molto vicino alle murature della casa. And they tend to actually break the walls. E quindi poi quello che può succedere è che proprio spacchino il muro. And so every now and then our local staffers have to go and remove those banyan tree seedlings. E quindi quello che fa lo staff lì in Lumbini è di andare a rimuovere questi germogli di bagnano. And oftentimes the seedlings grow back. E poi comunque dopo ricrescono questi germogli. So now. Interesting question here. What should I do this life and the last moment of my death in order to be next life a monk and not a woman working in fashion in Milano? Allora, questa domanda è: che cosa dovrei fare in questa vita in modo da riuscire? Last moment of my death. What should I do? Sì, che cosa dovrei fare in questa vita così che nell'ultimo momento della morte poi possa io rinascere come un monaco e non come una donna che si occupa di moda a Milano? In Milano, yeah. And certainly, so the answer in short is, after a sitting session, make a wish. Allora, dopo una seduta di meditazione, fai questo desiderio. Prendi, fai un desiderio. And then maybe consider whether realizing Nibbana is more important or not more important. E poi prendi in considerazione il fatto se è più importante realizzare il Nibbana che non occuparsi di moda, non lo so. Yeah. Right. So we do make these wishes by the virtue of this sitting session, may I realize Nibbana, or by the virtue of some wholesome deed, may I realize Nibbana. This is common practice. And so along the same line, if she would like to do that, an adjusted wish, well then go for it. Quindi è anche una pratica comune, in realtà, che dopo una seduta di meditazione si faccia sorgere questo auspicio, questo desiderio, ripetendo che grazie ai meriti acquisiti da questa pratica che ho fatto, che io possa realizzare il Nibbana. Quindi ci si inclina in quella direzione. Now, the next question is, what are some techniques to practice or improve anatta, non-self? Ci sono delle tecniche per migliorare la propria knowledge of anatta? Yeah, what are some of the techniques to practice or improve anatta? Sì, per praticare o migliorare, immagino, la conoscenza di anatta. Yeah. So the first answer to this question would be very simple. Keep observing the arising predominant physical and mental phenomena. Una risposta semplice, basta semplicemente continuare ad osservare i fenomeni mentali e fisici che sorgono. And quite naturally, in so doing, the aspect of anatta will come up at times, not all the time, at times. E in modo naturale, alcune volte, non succederà sempre, ma a un certo punto, a volte, questa caratteristica di anatta diventerà predominante, più chiara. And if in the course of one's mindfulness practice, this sense of self is coming up, the ego is coming up, self-referencing is happening, then be mindful of it. E poi se durante la nostra pratica di meditazione ci sono dei momenti in cui questi riferimenti all'ego, al nostro sé, e a tutti i riferimenti a noi stessi vengono fuori, è una cosa di cui essere consapevoli. And if on occasion you find yourself trying to control the rising and falling movement of the abdomen or other experiences, well then be mindful of that wanting to control. E anche se possiamo diventare consapevoli del fatto che a volte magari c'è una volontà di controllare salire e scendere dell'addome o altre esperienze, quindi fare attenzione a questo. Pay attention to that and let go of that wanting to control. Quindi mettere l'attenzione lì e poi lasciare andare questa volontà di controllare. And there's still an area in which you can practice, namely when it comes to speech and writing. So if you notice that the I that is coming in what you say or what you write, well, then try to phrase certain things in a less personal manner. Without the self-referencing. Un altro esercizio che si può fare è nel parlare o nello scrivere, quindi se stiamo parlando, se stiamo scrivendo qualcosa e vediamo che lì dentro ci stiamo mettendo dell'ego, il nostro sé, possiamo fermarci e riproporre quella frase in modo da togliere i riferimenti al nostro ego. Then, the next question is come se più come si può calmare la mente quando sorge una forte rabbia. So this probably means when strong anger arises in the mind, how to calm that. Is correct? Yeah. Yes. Okay, so now the answer to this question is if we go according to the Satipatthana Sutta, then to take the arabia, that anger itself as an object, to label it, to observe it in a detached manner, not getting involved in the story, and certainly then to know its nature, and this again and again in a continuous manner. Allora, seguendo le istruzioni del Satipatthana Sutta, quando la rabbia sorge, noi lo prendiamo come oggetto, lo etichettiamo, lo osserviamo, lo conosciamo nella sua natura, e questa cosa la facciamo con continuità. And certainly then beyond that, the commentary to the Satipatthana Sutta proposes to learn how to meditate on loving kindness. Mi sono dimenticata il punto di cercare di non identificarsi con la rabbia quando la osserviamo. E il commentario al Satipatthana Sutta inoltre propone una pratica di gentilezza amorevole. To learn that. To learn that practice. Per imparare questa pratica. And then number two is to cultivate loving kindness. E per coltivare la gentilezza amorevole. And then furthermore, to consider that certain one is the owner of one's certain actions. So if we act out of that anger, then the results, certain karmic results, will be ours. E poi riflettere sul fatto che noi siamo i proprietari delle nostre stesse azioni, quindi se noi agiamo attraverso la rabbia, poi i risultati karmici arriveranno su di noi. And certainly then, the commentary further recommends wise consideration in the sense that if we get angry with another person, the first person to suffer will be ourselves. E poi c'è... we ourselves. E poi un'altra considerazione da tenere a mente è che se noi siamo arrabbiati con un'altra persona, la prima persona che sta soffrendo in quel momento siamo proprio noi stessi. And then we have that noble friendship. Poi c'è l'amicizia nobile. And certainly listening to a discourse on on the Dhamma. E poi ascoltare discorsi sul Dhamma. Questi sono altri punti che possono aiutare. So ideally not to act on it. Quindi idealmente cercare di non agire con la rabbia. Now, another question in German, so I'll just put it into English. What should one do when several pains occur at the same time? Allora, che cosa fare quando ci sono diversi dolori che avvengono nello stesso momento? And certainly then the alternatives given here, should they be all observed simultaneously or one by one? Quindi devo osservarli tutti in modo simultaneo oppure uno alla volta? And then as a further condition, always together with the breath or not. E poi inoltre se bisogna osservarli insieme al respiro oppure no? And so the answer is clearly trying to observe one pain at a time, and not two or three at the same time. Allora la risposta è cercare di osservarne uno alla volta e non di più insieme. So if one tries to observe two, three, four pains at the same time, the mind will have to quickly go from one object to another, and this suddenly creates agitation in the mind. Se volete osservare due, tre, quattro dolori nello stesso momento, la mente dovrà saltare da un oggetto all'altro molto velocemente e si creerà dell'agitazione. And to do this in connection with the breathing is not necessary. E non è necessario fare questa cosa tenendo una connessione con il respiro. But rather to not just focus on the pain itself. Ma focalizzarsi sul dolore stesso. So if on occasion one notices that a certain correlation between a pain and the breathing, okay, that's fine, but not continuously. Quindi se ogni tanto si vede un collegamento tra il dolore e il respiro va bene, però non bisogna farlo continuamente. Now, here's the question about how to practice at home. So some of this has been answered already yesterday. Ah, qua ci sono delle domande su come praticare a casa e abbiamo un po' risposto già ieri. When to do... what's this one here? One question is, do you recommend Dhamma talks of other teachers? If yes, who and where to find? Una domanda è consigli dei discorsi di Dhamma di altri insegnanti, se sì, di chi e dove trovarli? A good source for Dhamma talks, at least in the US, is dharmaseed.org. C'è una buona fonte dove trovare discorsi registrati, è dharmaseed.org. And so that's a website that contains a huge collection of Dhamma talks given by for the most part, Theravada Dhamma teachers at IMS, at Insight Meditation Society. C'è una grande raccolta qui di discorsi di Dhamma dati principalmente da insegnanti Theravada e molti sono stati tenuti al IMS. And then what else? Go and check out on YouTube. Peraltro potete andare voi a cercare magari su YouTube. There are plenty, it appears there are plenty of discourses that are available there. Ci sono moltissimi discorsi su YouTube. But I would recommend to, you know, listen to discourses that support this kind of practice, mindfulness practice based on the Satipatthana Sutta. Io consiglio di ascoltare discorsi che sostengono la pratica come quella che facciamo qua basata sul Satipatthana e sulla consapevolezza. If you listen to Dhamma talks that are from rooted in a different tradition, well, this may create some doubts. E ascoltare discorsi che sono fondati su altri tipi di tradizioni potrebbero creare un po' di dubbi, di confusione. Now let's go for this one here that we discussed early on. Allora, in questi giorni sono apparse molto più pause tra l'emergere di un'intenzione, il suo manifestarsi e quelle successive. Intenzione, azione, pausa, intenzione, azione, come se vi fosse una maggior quantità di vuoto rispetto alla manifestazione. Questo è reale o è solo la mente che prende come oggetto il vuoto? So in these days appear many pauses between the arising of an intention and its manifestation and the subsequent intentions. So intention, action, pause, intention, action. Like it is as if there is a bigger quantity of void, instead of its manifestation. This is real, or it is only the mind that take as an object the void? So now the answer to that question is that indeed we have first an intention, and suddenly that then will be followed by an action. However, there are situations when an intention may not necessarily immediately be followed by an action. Quello che succede è che sì, solitamente c'è un'intenzione che viene poi subito seguita da un'azione, però può anche succedere che un'intenzione non sia subito seguita da un'azione. And so what might happen is an intention is there, and then typically, ideally, a yogi would briefly reflect what one is intending to do or to say, whether this is appropriate, beneficial or not, and suitable or not. Magari c'è un'intenzione, poi c'è un momento in realtà di riflessione in cui magari il meditante riflette se compiere o no quella intenzione, se è un'intenzione idonea a essere fatta oppure no. And if the intention is beneficial as well as suitable, well then, the action will follow. Se l'intenzione è un'intenzione buona e anche idonea, allora poi l'azione può avvenire. Now, another situation is certainly there. Let's say a retreatant is about to enter here the Dhamma hall for the next sitting session, is standing in front of the door just outside there, and the intention arises to reach for the door handle in order to enter. And that intention then disappears. Un'altra situazione che può avvenire, facciamo un esempio, un meditante è fuori dalla porta della sala di meditazione, sorge l'intenzione di raggiungere la maniglia della porta, però poi il meditante osserva l'intenzione e questa intenzione scompare. And so the intention is there, but it disappears and no action follows. And in between, indeed, there is a pause. Quindi l'intenzione è lì, però poi scompare e quindi nessuna azione segue quell'intenzione. Quindi c'è sicuramente una pausa in questo senso. And certainly the following intention might also disappear, and then there's an even longer pause. E anche poi la successiva intenzione che sorge, anche quella può scomparire, può esserci un'altra pausa, magari anche più lunga. And it's only when the intention is really strong that the action will follow. E solo quando l'intenzione sarà veramente abbastanza forte, allora l'azione la seguirà. And so during that pause, then focus your attention on the next most prominent object that occurs in the body or in the mind. Quindi durante questa pausa potete spostare la vostra attenzione su l'oggetto più predominante che c'è in quel momento nella mente o nel corpo. And certainly, so it's good to keep the mind busy labeling, observing and knowing one object at a time. Quindi è utile mantenere la mente occupata nell'etichettare, nel notare, nell'osservare un oggetto in ogni momento. Yes, I guess that's that. And so don't get carried away with that vuoto, that emptiness. Quindi non fatevi portare via da questo, fatevi distrarre troppo da questo vuoto, questo spazio che c'è. Now, in connection with one of the Dhamma talk, preceding Dhamma talks, what are the limitations or shortcomings in trying to reach a superior path without an appropriate training in the fruition attainment? You said connected with the other Dhamma talks? Yes. Ok, quindi questa è una domanda connessa con il Dhamma Talk che abbiamo fatto. E quali sono le limitazioni o i difetti nel provare a raggiungere un sentiero superiore senza un addestramento appropriato nell'ottenimento della fruizione? So the answer to this is a path experience has happened, it will be followed by a few moments of fruition consciousness, and later on more of those. If one then, or maybe just a few more, and if one then early on decides, okay, this is it, and now the training towards the next path will start. Allora, quello che succede è che appena dopo aver raggiunto il sentiero ci sono questi brevi momenti di fruizione, poi possono esserci anche altri momenti, molti di più oppure anche di meno, però a un certo punto una persona può pensare, ok, adesso basta e mi addestrerò per il sentiero superiore. And the disadvantage of this is that one is not really familiar with these certain fruition experiences, and if one then moves ahead, there will be a lot of confusion. E il disavvantaggio di fare questo troppo in fretta è che non si è abbastanza familiari con il processo della fruizione e quindi andando avanti subito ci può essere confusione. And developing the fruitions is a way of strengthening one's overall practice. E inoltre l'addestrarsi a praticare con la fruizione è un modo per rafforzare proprio la nostra pratica. And so with that, then one's understanding of these fruition experiences becomes far wider. E inoltre la comprensione dell'esperienza della fruizione diventa molto approfondita, molto ampia. And it's not just the fruitions itself, but also the dhammas that arise prior to those experiences. E non solo questo, ma anche proprio il dhamma che sorge prior, prima? Prior. Prima di queste esperienze. Yeah. So after just a few, let's say after a path attainment and a few moments of fruition consciousness, to then decide to move on is a bad idea. Quindi se soltanto dopo alcuni istanti di coscienza di fruizione decidiamo subito di proseguire, questa non è una buona idea. Somewhat connected. If someone is experiencing fruition moments connected with the first path, how does one distinguish that from path and fruition moments connected to the second path? Se una persona sta sperimentando delle fruizioni del primo sentiero, come si fa a distinguere quelle fruizioni dalla conoscenza del sentiero e della fruizione di un sentiero superiore? And the short answer to this is practice and find out for yourself. La risposta a questo molto rapida è praticate e lo scoprirete da soli. And there's no use to talk about this in advance and to acquire concepts and the reality may turn out to be quite different. Non serve parlarne in anticipo di queste cose perché si accumulano dei concetti quando in realtà la realtà è molto, può essere molto diversa. So now here we have that other next question in Italian. Allora, mi sembra di non riuscire più a connettermi con il respiro e l'addome. È come se non trovo più sensazioni. Solo stati mentali di sconforto affollano la mente. Che fare? Inoltre, è tornata la sonnolenza dei primi giorni. È come se i progressi fatti fino a ieri fossero spariti. It seems to me that I'm not able anymore to connect with the breath and the abdomen. It is like if I can't find the sensations, but only mental states of discouragement. Yeah, discouragement that are in the mind. What to do? And also, it came back the sleepiness that I had the first days. It is like if all the progress done until yesterday are disappeared. A question that is very much based on direct experiences. And what does happen is the practice moves ahead, the imperfections of insight come up, the practice goes well, one is happy, and suddenly getting attached to this or that experience or a few moments of absent-mindedness may already be enough and the practice drops off. Allora, anche questo impariamo tramite l'esperienza, quello che succede spesso che appunto con la pratica arrivano anche delle belle esperienze, allora siamo felici, ci attacchiamo un po' a queste esperienze, poi magari allora arrivano dei momenti in cui la consapevolezza non è presente e la pratica tende a collassare di nuovo. Yeah, and so at that point, to experience some discouragement and some sleepiness is not doesn't come as a surprise. E quindi sperimentare delle fasi poi di scoraggiamento, di sonnolenza, non è sorprendente. No, it's not a major thing. what to do is simply to re-establish one's continuity of mindfulness, to keep restraining one's senses, keep the mind in the present moment, and then observe the discouragement, the sleepiness, and pains and aches, etc., with a friendly attitude of acceptance, of patience, determination, and detachment. And quite soon the practice will move ahead again, and the beautiful mental states will be back, and you'll be so happy. Quindi semplicemente la cosa da fare è quella di continuare la nostra osservazione con una consapevolezza continua, contenere i sensi, stare nel momento presente e poi osservare quindi questo sconforto e la sonnolenza finché questi non... con accettazione, con pazienza, finché non scompariranno e la pratica riprenderà il suo slancio. Some amount of fluctuation that does occur. Quindi ci sono delle fluttuazioni che avvengono. Now the ideal, of course, is to have really continuous mindfulness with no lapses whatsoever, and this will not happen. This discouragement will not occur. Quindi se si riesce ad avere una consapevolezza più continua possibile, senza tanti gap, tante interruzioni nella consapevolezza, poi questi scoraggiamenti non avvengono spesso. No, wait a minute, we go here from the back. Let me see. Oh, what's your guess estimation of the number of people alive today that reached at least the first stage of enlightenment? Any arahants around? So two questions. Allora, qual è la tua stima personale del numero di persone vive oggi che hanno raggiunto il primo stadio di realizzazione? È la prima domanda. La seconda è quanti arahant? So maybe we should ask the United Nations for global statistics. Forse dovremmo chiedere agli Stati Uniti di fare una statistica globale. So it's hard to express this in terms of total populations. È un po' difficile cercare di dare una risposta in termini di popolazione globale. But if you look at maybe places like the Mahasi Center, the Mahasi Centers in Burma, out of a number of yogis practicing there, well, there would be a smaller percentage figure of yogis who do reach the first path. Però se guardiamo per esempio un centro come il centro Mahasi e alla immensa quantità di persone che hanno praticato lì, una percentuale più piccola di questa grande quantità di persone sono riuscite a raggiungere la prima realizzazione. Now, in terms of the numbers, so most likely there will be more people who gained the first path, then less than that who gained the second path, even less who gained the third path, and just a very small number who gained arahantship. A quanto riguarda i numeri, possiamo dire che ci sono molte più persone che riescono a raggiungere il primo sentiero, meno il secondo, ancora meno il terzo sentiero, e veramente molto pochi quelli che diventano arahant. And then we have an additional difficulty. So an arahant, what do you think? We'll go around and announce. Poi un'altra cosa che rende le cose ancora più complicate è che pensate che un arahant vada in giro a dire io sono un arahant. So, at least in Theravada Buddhist countries, monastics certainly will be very careful not to make any such announcements. E se non altro nella tradizione Theravada i monaci sono molto attenti a non fare nessun tipo di affermazione di questo genere. And one of the reasons is really just practical. If a person starts claiming to be an arahant, you know, that sadhana will typically attract a huge crowd of sadhana devotees. Allora, more than you may wish for. La ragione è anche molto pratica. Se una persona dicesse di essere un arahant, questo attirerebbe una quantità impensabile di devoti intorno a lui. And so, among devoted Buddhists, they will prefer to give dana to an arahant rather to, let's say, someone else. And so the arahants are in hard or in big demand. Tutti i devoti laici preferirebbero dare le loro offerte all'arahant piuttosto che agli altri, quindi gli arahant sarebbero altamente richiesti. In the past, in the recent past in Burma, people or monastics such as whether Venerable Hasi Sayadaw, Lady Sayadaw, Webu Sayadaw, these are Sunlun Sayadaw, all of them are considered or were considered arahants at the time. E almeno in Birmania, in un passato abbastanza recente, ci sono stati dei monaci come Webu Sayadaw, Lady Sayadaw, Masi Sayadaw e Sunlun Sayadaw, che erano reputati essere arahant. And also Mogok Sayadaw. Anche Mogok Sayadaw. Now, have any other questions here? I realize that my mind gets bored during watching the breathing process. When another object occurs, I feel relieved. So sometimes I spend only a couple of minutes with the breath in 1 hour of sitting meditation, because so many other objects occur. Is that okay? Allora, mi sono accorto che seguire il respiro per me è noioso e quando ci sono altri oggetti sento un senso di sollievo, quindi succede che magari in un'ora sto solo 2 minuti con l'addome, con il respiro e sto con altri oggetti, va bene? Uh-huh. And so the first starting point to make here is, while observing the rising and falling movement of the abdomen, if boredom arises, you could take the boredom itself as an object and just label that as feeling bored. Quindi una cosa che potete fare quando seguite salire e scendere dell'addome, sorge la noia, prendere la noia come vostro oggetto di osservazione, etichettarla noia. And then, if observing the boredom, and then maybe going back to the rise and fall, and looking for some new aspect, something different from what you usually observe, and with that some interest might reoccur. Quindi osservate per un po' la noia, poi dopo tornate a salire e scendere dell'addome cercando di osservare degli aspetti nuovi, qualcosa di nuovo che non avete visto prima, e con questa attitudine magari dell'interesse può sorgere invece della noia. Now, if however there's nothing fascinating happening there with the breath, well, then let go of it and move your attention to some other object, that's okay. Però se proprio non succede niente se non succede niente di particolare con il salire e scendere l'addome, allora va bene anche stare con altri oggetti. And so the second certain question here, or is it better to ignore some of the other objects and stay with the breath? E poi c'è un'altra domanda che continua, cioè oppure è meglio osserva avere un altro oggetto prima, no, ignorare gli altri oggetti e restare invece con il respiro. So if not much is happening in regard to the breath, stay with it. Quindi se qualcosa succede con il respiro, state con il respiro. But if truly there's not much happening, and then on top of that there's the boredom, well then move to some other object. Però se davvero non sta succedendo alcunché e c'è anche la noia sopra tutto questo, allora è meglio muoversi su un altro oggetto. And that kind of situation, in the end you have to decide for yourselves. In questo tipo di situazioni alla fine dovrete decidere da voi cosa fare. Then we have a question here. Is enlightenment the same as liberation from suffering? L'illuminazione è la stessa cosa della liberazione dalla sofferenza? And then the follow up is it the same as any experience that takes Nibbana as its object, such as stream entry, attainment of or fruition, etc.? È la stessa cosa che prende il Nibbana come suo oggetto, cioè l'entrata nella corrente o la fruizione? Cioè queste due cose sono... So is it... let me see. Is it the same as any experience that takes Nibbana as its object, namely stream entry, attainment, or fruition? Cioè, ogni esperienza che prende il Nibbana come oggetto è la stessa cosa. Ah, è la stessa cosa dell'illuminazione. Scusa, mi ho collegato. So broadly answered, enlightenment and liberation from suffering are the same. Allora, rispondendo così in modo generale, l'illuminazione e la liberazione dalla sofferenza sono la stessa cosa. So enlightenment refers to, as we've seen in an earlier Dhamma talk, to the attainment of the path experience. Come abbiamo detto negli scorsi Dhamma talk, l'illuminazione consiste nel raggiungimento del sentiero, dell'esperienza del sentiero. Path experience occurring, certain mental defilements will be removed from the stream of consciousness once and forever. Quando avviene l'esperienza del sentiero, alcuni degli inquinanti mentali vengono eliminati dalla coscienza una volta per sempre. And with that, well, obviously, the suffering, it's a liberation from suffering. At first it's a partial liberation, with Arahantship it's a full liberation. E quindi naturalmente questa è una liberazione dalla sofferenza, anche se è soltanto parziale, poi con lo stato di Arahant diventa una completa liberazione dalla sofferenza. However, a fruition experience is not the same as enlightenment. Però l'esperienza della fruizione non è la stessa cosa dell'illuminazione. Because it's not eradicating any defilements. Perché non sta sradicando nessun inquinante. So that's the work of the path consciousness. Questo è un lavoro, è una funzione solo della coscienza del sentiero. Oh. The Buddha said about consciousness, this is not mine, this I am not, this is not myself. Il Buddha dice rispetto alla coscienza, questa non sono io, non è mio, non è il mio sé. And if we are not consciousness and there's no self, what are we? What is our experience? Se noi non siamo la coscienza e non c'è un sé, che cosa siamo noi? Che cos'è la nostra esperienza? So this is a question related to anatta, and a question based on a sense of self. Questa è una domanda che riguarda anatta e il senso di un sé. And so as long as we think in terms of the think and experience in terms of the self, and we then hear about anatta and consciousness and so on, then it sounds like a paradox. Allora, finché noi viviamo e sperimentiamo le cose con un senso di un sé e poi sentiamo parlare di anatta, della coscienza, ci sembra qualcosa di paradossale. So from the Buddha's point of view, it's just the various consciousness and the various mental factors working together and performing the necessary mental functions. Allora, dal punto di vista del Buddha ci sono soltanto delle diversi tipi di coscienza e di stati mentali che lavorano insieme e svolgono le loro funzioni necessarie. And so when it comes to the seeing process and we say I am seeing, then this is a misperception. Quindi quando per esempio parliamo del vedere e diciamo io sto vedendo, c'è una percezione che è distorta. And through practice we see that it's just a functional process. There's the visible object, there's the eye sensitivity. When the two, when the visible object impinges on the eye sensitivity, seeing consciousness arises, and there's no self in that. Ma attraverso la nostra pratica vediamo che è soltanto un processo funzionale quando c'è un oggetto visivo e una base materiale corporea e queste due cose si incontrano, allora sorge una coscienza visiva, questa è un, non c'è un sé lì. When a pain occurs in the body and we observe that mindfully, then it's the mindfulness, the mental factor of mindfulness, which does observation of that object. E quando c'è un dolore noi osserviamo con consapevolezza lì, è proprio questo stato mentale della consapevolezza che in quel momento sta osservando l'oggetto. And so then it's not I am observing a pain, but rather the mental factor of that mindfulness is doing the observation. Quindi non c'è un io sto osservando il dolore, ma c'è questo fattore mentale della consapevolezza che sta facendo questa osservazione. And likewise with the thinking, so we tend to believe I am thinking, I'm the owner of my thoughts and whatnot. But certainly in the end one sees for oneself it's just the thinking happening. Ma anche con il pensiero c'è questa tendenza di credere che io sto pensando, io sono il proprietario dei miei pensieri, però poi con l'esperienza vediamo che le cose non stanno così. And then we have this certain mental factor of chetana, which is your volition. And so for actions to take place, as we've seen, intentions are necessary. Well, then these intentions are a manifestation of chetana, of volition. E poi c'è il fattore mentale di cetana, questa volizione che noi possiamo vedere, per esempio, che dal fatto che un'azione è possibile solo quando c'è un'intenzione che la precede, e l'intenzione è uno dei risvolti di cetana. So in the end, what we typically see as a being, as a self, as an individual, man or woman, consists of just the two mentality and materiality, or the five aggregates and that are working together. Quindi col tempo vediamo che quello che prima consideravamo come io, il mio sé, oppure un uomo o una donna, in realtà è soltanto un lavorare, un funzionare insieme di fenomeni mentali o fisici, oppure dei cosiddetti cinque aggregati. And as human beings, we have the opportunity to the choices are there to do something wholesome or to do something unwholesome. come esseri umani però noi abbiamo una scelta, possiamo scegliere di fare qualcosa che sia benefico oppure di fare qualcosa di malsano. And the Buddha is not teaching fatalism, and he does certainly state that we have to take responsibility for our ethical conduct. Cioè, il Buddha non è un fatalista, non ci sta insegnando questo, ci sta dicendo che dobbiamo essere responsabili del nostro comportamento e della nostra condotta morale. So now, next question: when do we label an object and certainly let it go? When do we investigate? What is this here? Another two? What's two? Or when do we investigate in order to see the nature of it? So typically. Devo tradurre. Oh, sorry. Quando etichettiamo, quando osserviamo e quando investighiamo per conoscere la vera natura dei fenomeni. So for the most part we do briefly label an object and then we try to observe it and come to know its nature. Allora, di solito noi etichettiamo un oggetto brevemente, poi lo osserviamo e arriviamo a conoscere la sua natura. Now, however, there are some exceptions in the Mahasi tradition. Plenty of objects arise in a quick succession, so quickly that we can no longer label. Then the instruction is drop the labeling temporarily and just observe it. No, and then later on, when the flow of objects slows down, then pick up the labeling again. Però ci sono, almeno una tradizione Masi, delle eccezioni, nel senso se ci sono una sequenza di oggetti che stanno avvenendo molto rapidamente, l'istruzione e non è più possibile etichettarla, l'istruzione è quella di lasciar perdere l'etichettatura e semplicemente osservarli temporaneamente, poi quando gli oggetti tornano a rallentare, allora possiamo riprendere a etichettare. If on occasion objects become so refined that the labeling truly interferes with the observation and the knowing of the object, well then temporarily drop the labeling. E anche se l'osservazione dell'oggetto diventa così sottile che etichettare diventa un ostacolo, un problema per l'osservazione, allora temporaneamente lasciamo perdere l'etichettatura. And then still one more aspect. Namely, the labeling is not something absolute, it's just a crutch that helps us in the practice. Ok, quindi l'etichettare è più che altro soltanto una stampella, uno strumento che ci aiuta nella nostra osservazione. And so, more important than the labeling is the actual observation of an object, and even more important, to know its nature. Quindi la più importante dell'etichettare sono la reale poi osservazione dell'oggetto e soprattutto conoscere la sua vera natura. And when on occasion we miss to label an object, then never mind, but try to at least ensure a proper observation and knowing of the object. E se ci dimentichiamo di etichettare un oggetto non ha importanza, però possiamo sempre osservarlo e conoscerne la natura. And now I'm thinking, when do we label an object and let go of it? Well, if we, there's still one more case. So if a particular object or a particular movement of the body or the thinking, repetitive thinking, occurs again and again and again, and we've observed it already 100 times, and we know it really well, then indeed label it, briefly know it and let go of the object. Invece per l'aspetto dell'etichettare e lasciare andare un oggetto, questo si può applicare per esempio in un caso in cui stiamo seguendo l'addome, ci sono dei pensieri che ricorrono continuamente, allora in quel caso noi li etichettiamo e lasciamo andare questo oggetto. And then I'm not quite sure about this one here. Here's a long question with regard to metta practice, and at first it seems to be working, the metta vibes are there, and then later on, no, that's not the case anymore when the mind is balanced. Una domanda sulla pratica di metta, che all'inizio sentiva la vibrazione della metta, però poi quando la mente è diventata più equilibrata non l'ha più sentita. And so the short answer would be, even if at times the metta vibes are not there anymore, never mind, just keep continue. Quindi anche se le vibrazioni della metta non sono presenti, non fa niente, possiamo continuare lo stesso a farla. This is for someone who's doing 20 to 30 minutes of metta meditation after the chanting. Questa era una persona che faceva 20-30 minuti di metta dopo il canto serale. So maybe this much for this question. No, we already did it. Yeah, that one is done. So only very few left. Any interesting data from all of your work of recording interviews with the retreatants? So you will have seen me writing down and plenty of things, and that you could share with us. Well, I have to admit my memory isn't all that great, and so writing down what certain meditators report then is a good or is a nice certain way of keeping track of what actually was said. Allora, la domanda riguarda al fatto che lui prende nota di quello che i meditanti dicono ai colloqui, lui dice, perché la mia memoria non è così potente da ricordare tutto, quindi così ho una traccia di quello che sta succedendo, è successo. And then taking notes during the interviews over a longer period of time with 36 yogis around, it's very helpful to see at the development of a retreat. And so what did the person report during the first interview, then what during the next interview, and then one can see the development and how probably things will continue. E poi è anche utile perché tenere così traccia di tutte le esperienze dei meditanti, tipo 36 meditanti come qui dall'inizio alla fine del ritiro, si vede che cosa un meditante riportava nel suo primo colloquio e poi come si è sviluppata la pratica. And it's also keeping keeping notes, writing down things is a way of respecting what the yogis are saying. E anche scrivere, prendere nota, è anche un modo di avere rispetto per quello che un meditante sta dicendo. And it's not just listening and then at the end of the interview to say continue. E non solo ascoltare un po' così e poi alla fine del colloquio dire semplicemente va bene, continua così. So there's that, and then after maybe a week later or a year later, let's say if some of you will come to Lumbini, then I will go, and you're just about to arrive, then I might see, this is what the person reported back then. So it's useful in that sense too. Quindi mettiamo che poi nei prossimi anni ci rincontriamo, qualcuno di voi magari viene a Lumbini, io così so come di com'era la vostra pratica. Well, and on top of that, one with the written records, one can see similar patterns in the development of retreatants, especially the more experienced ones. E poi scrivendo tutte queste note si può anche vedere che c'è uno schema molto simile di sviluppo nei meditanti, soprattutto tra osservando i più esperti. And so it's also helpful for even for Dhamma dogs then have some or to go back to this or that interview, what certain of the yogis reported back then, to have some, how do you say, real life experience added into it in that Dhamma talk. È anche utile poi proprio per fare discorsi di Dhamma, inserire magari a volte anche delle esperienze reali che sono state riportate dai meditanti. The Venerable Sahaja Upandita did certainly keep some notes. Anche il Venerabile Sahaja Upandita faceva la stessa cosa. But for him very short. Però lui le prendeva molto brevi. If it is an appropriate question, what are your opinions on Mahayana and on Vajrayana? Se è una domanda appropriata, qual è la tua opinione sul Mahayana e il Vajrayana? Vajrayana is the Tibetan practice. Sono Tibetan, una pratica tibetana. Tibetan practice. The preference is clearly for Theravada. Io preferisco il Theravada. And the reason being that these are the original teachings of the Buddha, the oldest teachings that have been handed down over generations. E la ragione è perché si tratta degli insegnamenti più antichi, originali del Buddha, che sono stati tramandati attraverso le generazioni. And then with Mahayana and Vajrayana, what is happening that over the centuries, a lot of the initial teachings of the Buddha got embellished. Quello che è successo con il Mahayana e il Vajrayana è che durante i secoli molti degli insegnamenti originali del Buddha sono stati un po' imbellettati. And a really nice illustration for this is related to Lumbini itself and the stories that the stories, the descriptions of the Buddha's birth in Lumbini as we have them as recorded in the Theravada texts and then as recorded in the Mahayana texts and Vajrayana texts. And you can see how in Mahayana already a thick layer of embellishments that gets added, and with the Vajrayanas, with the Tibetans, even more. Quindi un esempio è per esempio la storia della nascita del Buddha a Lumbini, come si trova nei testi Theravada antichi, e invece poi come nei testi Mahayana e poi ancora di più in quelli Vajrayana, tutta questa storia è stata abbellita, e ampliata, inventata. Cioè, hanno aggiunto tante aggiunte. There are also in terms of the orientation in Theravada, the orientation is clearly to realize the Dhamma in this very life or as soon as possible for oneself, whereas in Vajrayana, first one tries to liberate all beings before one liberates oneself. E poi c'è anche una questione dell'orientamento della pratica. Nel Theravada la cosa principale è cercare di raggiungere la realizzazione proprio in questa vita o se non altro il prima possibile, mentre nel Vajrayana l'orientamento è quello di cercare di aiutare tutti gli altri esseri a illuminarsi prima di se stessi. So if we were doing, were to do that during this retreat, then we would probably do other things. Eh? we would probably be doing other things if we were to follow those certain teachings of first liberating all other beings before. Quindi se dovessimo seguire cercare di far liberare gli altri esseri prima di noi in questo ritiro, non staremmo facendo cose diverse, non staremmo facendo questo. And certainly the Theravada approach, and this is following the Buddha, who over long periods of time developed his paramis, his perfections, in order then to realize the Dhamma. Quindi quello che noi facciamo qui e nel Theravada è quello di seguire le istruzioni del Buddha, che in un periodo lunghissimo lui è, per diventare un Buddha, ha sviluppato tutte le sue perfezioni, le parami, per raggiungere la realizzazione. And then only the Buddha went about teaching others. E poi il Buddha è soltanto un Buddha può poi no. Solo dopo. Solo dopo il Buddha poi ha iniziato a insegnare, dopo aver realizzato il Dhamma. So, in Lumbini we have a variety of certain Buddhist traditions that are present with monasteries and respective sangha and certain. So there is a mutual respect there, and I share that. E in Lumbini ci sono molte tradizioni diverse buddiste che convivono, tutte con il loro rispettivo sangha, e c'è un rispetto, c'è una buona convivenza. So now, second last question. So much injustice in the world, how to behave, engage properly from a Dharma perspective. Dato che nel mondo è presente così tanta ingiustizia, come comportarsi da un punto di vista del Dhamma? To carefully follow the Buddha's teachings, and to be mindful of what one is doing, saying and thinking, and not to add to the injustice, and if one can, try to reduce it wherever possible. Quindi essere consapevoli di quello che facciamo, dei pensieri che abbiamo nella mente, e quanto è possibile cercare almeno di non aggiungere ingiustizie nel mondo, e se c'è possibile anche magari di alleviarne qualcuna. And certainly compassion is an important quality that certainly the Buddha very much represented. La compassione è una qualità importante che il Buddha rappresentava grandemente. Okay, so that's that. And certainly here, the very last one, what was this? So when, how and where did you discover meditation? Quando, come, dove hai scoperto la meditazione? Oh, well, I'm a bit shy. Sono un po' timido. And to answer that, but if you do want to have an answer, how I started meditating, well, just one story from back then. So during my high school days, I got more and more interested in Asian philosophy and borrowed books from the library, and then came across a yoga book, and the last chapter of that yoga book contained advice on basically samatha meditation, namely to place a candle in front of one and then to light it and then to stare at the flame. Allora, quando ero giovane, stavo facendo le scuole superiori, mi ero interessato di filosofia orientale, quindi avevo preso un libro sullo yoga, e poi l'ultimo capitolo di questo yoga c'era qualcosa che riguardava la meditazione di samatha, quindi diceva di mettere una candela davanti a sé e poi di concentrarsi. So I tried that for a while, and I noticed something is happening, and then even decided to to skip school for 3 days in a row. Quindi io ho provato a fare questa cosa con la candela e dopo un po' ho visto che stava succedendo qualcosa, quindi ho deciso addirittura di saltare 3 giorni di scuola per stare a casa. And staying at home and not even informing my family. And there was a separate room in a different apartment, and so I did my candle flame meditation there. Non ho neanche informato i miei genitori perché vivevamo in 2 spazi separati e quindi ho fatto la mia meditazione su questa fiamma della candela. And then I remember on a few occasions some rather intense PT jumps occurred, and I thought, PT current, like electric current going through the body, and I thought, oh my goodness, what is this? E poi mi ricordo ci sono stati dei momenti in cui c'era questo forte gioia, questo rapimento che attraversava improvvisamente tutto il corpo e quindi ero molto sorpreso. Eventually my family found out about it and then there was no more peace at breakfast. E poi quando però la mia famiglia l'ha scoperto, a colazione non c'è più stata pace. And so my 2 brothers and my mom, they were all against the wasting one's time in meditation. Perché sia la mia madre che mio fratello erano contrari a quei tempi alla meditazione. Molto tempo furono contrari. I gave up on the meditation back then, but later on picked it up again. Quindi per un po' ho abbandonato la pratica di meditazione e poi l'ho ripresa. Practicing in the Tibetan tradition a little bit, Bodh Gaya, doing the prostrations there, 100,000 prostrations. E ho anche praticato un po' di meditazione tibetana a Bodh Gaya, facendo queste centinaia, migliaia di inchini, prostrazioni, non so. 100,000. 100,000 prostrations. And on the day I completed 100,000 prostrations, a 10-day retreat with Christopher Titmus started in Bodh Gaya. I attended that, and then there was a second 10-day retreat, and I continued with that retreat. E poi quando ho finito queste prostrazioni, ho fatto un ritiro di 10 giorni. In Christopher Titmus. Con Chris, questa persona. E poi ne ho fatte un altro di 10 giorni. Yeah, right. And then ever since I've been practicing in the Theravada tradition. E quindi poi ho deciso di praticare nella tradizione Theravada. And one retreat with Anagarika Munindra in Sarnath, and then and shortly after that, a 1-month retreat with Saidu Pandita in Kathmandu, and that was tough. Poi ho fatto un altro ritiro con Munindraji e poi 3 mesi di ritiro con Upandita in Birmania. Questo è stato veramente duro. And there was a group of mixed group of Newar Buddhist meditators and a number of foreign meditators, and so we had daily interviews with Saido Pandita. Quindi c'era questo gruppo di meditanti del luogo e anche stranieri, e avevamo un colloquio giornaliero con Saido Pandita. Well, and so he was tough during interviews, really. E lui era veramente severo durante i colloqui. But I just kept on practicing. Ma io ho continuato comunque a praticare. And then towards the end of that retreat, Saidu Pandita's interpreter at the time, Venerable Saidu Nyanaponika, he gave a slideshow on the Masi Meditation Center in Burma. Slideshow. Presentation. Quindi alla fine del ritiro l'interprete, che era Nyanaponika a quei tempi, di Saido Pandita, diede questa presentazione del centro di meditazione Masi in Burma. In Birmania. And one of the comments or remarks were Yes, that Maharshi said, oh, for anyone who wants to do long-term practice, that's probably, Maharshi Center is probably the best place in the world. And I knew that's where I'm going next. E c'è stata questa frase in cui ha detto, per chi vuole fare una, veramente una pratica seria, intensiva, lunga, e questo centro Maharshi è il posto migliore al mondo, quindi io lì ho saputo quello che stavo per fare. And without even knowing where Burma is located, properly knowing where Burma is located on the map in Southeast Asia. Senza nemmeno sapere dove fosse la Birmania a quei tempi. And I ended up at the Maharshi Center under the guidance of Sayadaw Pandita. Quindi alla fine sono andato nel centro Maharshi, sempre sotto la guida di Upandita. And basically I stayed with him until his demise. Until now. E sono stato con lui praticamente finché non è morto poi. Okay. So now maybe this much. And in this connection, obviously, you know, the gratitude goes first and foremost to the Buddha for his Satna liberation teachings and expositions on those Satna teachings. Then goes to the long line of teachers who followed the Buddha, among those Venerable Maharshi Sayadaw of Burma, Venerable Sayadaw Pandita of Burma, and many others. And my gratitude goes also to Gianni and the board of the Associazione di Pianeti Legi, and all those many volunteers who are in an expert manner running this center, are running this center during this retreat and also in the near future. And so everyone, the two of you, and Sandra is there, Frederica is there, and then Carlo is there, Alessandra is there, and so many others who've contributed to the growth of this center. I'm also deeply grateful to the nature around here, the birds, and all other living beings. And so let us end today's retreat by sharing the merits. And we'll do this in the Pali scriptural language. Please repeat after me. Idam me. Nyatinam hotu. Sukhita hontu nyatiyo. Idam me. Nyatinam hotu. Sukhita hontu nyatana. Idam me. Nyatinam hotu. Sukhita hontu nyatane. Itavata cha. Amehi. Sambadam punya sambadam. Sabbe deva anumodantu. Sabba sampati siddhya. Itavata cha. Amehi. Sambadam punya sambadam. Sabbe sata anumodantu. Sabbe satta numodantu. Sabba sampadi sidiya. Sabba sampada sibiya. Ita vata cha. Ita vata cha. Amehi. Amehi. Sampadam punya sampadam. Sampadam punya sampadam. Sabbe Bhuta anumodantu. Sabbe Bhuta anumodantu. Sabba sampadi siddhiya. Sabba sampadi siddhiya. Sadhu, sadhu, sadhu. The meaning, do you know the meaning? Of this? Yeah. Let the merit be for my relatives, may they be happy. Che i miei meriti vadano per i miei parenti, che essi siano felici. And may all beings share this merit. Che tutti gli esseri possano condividere questi meriti. Which we have gained. Che abbiamo ottenuto. For the acquisition of various kinds of happiness. Per poi poter acquisire vari tipi di felicità. Well, and that's it. Okay, that's all.